dittatura è una conseguenza. Bene, buono, perché io devo rifare, l'ho fatto io, sarà fango dietro la moto, però si crepano sempre, lo so, le staffe al telaio, si crepano sempre, si crepa la vernice, perché io stuccato, si crepa sempre la vernice, non riesco a levarmi i piedi, non devo dare la mia vista, tra un po' la rimetto, perché l'ho già smontata, la rimetto in piedi e vengo a farmi fare a fango. Quando vuoi non c'è problema. Poi bisogna studiare il sistema d'appoggio, del sistema blocco, dei supporti elastici in modo che non spacchi, perché se te lo fa vuol dire che c'è troppa torsione. Purtroppo quei motori lì sono molto, vibrano parecchio, il telaio è molto rigido, parafango scarico. Mia Danilo me ne ha fatto un paio di parafanghi modificati, perché lui se li faceva fare il suo disegno e li abbiamo fatti noi. Già l'ho visto la moto di Danilo, un attimino Roberto, che sono qua, un attimino. Vabbè, mi assento anche io che mi hanno chiamato, dai, ci sentiamo tra qualche minuto, dai, è un tempo di assaggiare qualcosa e arrivo subito. Ehi, mi assento un attimino, già lui, arrivo tra qualche minuto. Ehi, andavo a una chiera, che stavo facendo questo fischio. Thank you. delle imprese esterne adesso sono rientrate per fare quel lavoro lì, e stanno facendo il lavoro, stanno facendo, c'è un casino di gente, per quello. Meglio così va, meglio così, gioia! Ho sentito, poco più bassa, non so cosa può essere, forse un po' di stazionali della pioggia, c'è un po' di picchi negativi. Ma che pioggia non sta lì, Anto? Butto là, mi manda un po' in corto la cosa, l'antenna, mi salgono un po' le stazionarie. Vabbè. Mi sento male però, Anto, buonasera comunque. Buonasera a te. No, stazionari sono, quando è così c'è un po' di stazionari, non so per quale motivo sto vedendo dallo smitter dei picchi negativi. Tu stai spingendo troppo tu? Dicendo, non c'ho niente sotto. È tutto blu, sembra che stai tipo per macchia. Aspetta. Io non so chi sei, non... Aspetta un attimino, guarda un po' adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Un po' meglio, però ti sento tutto tipo per macchietta, ora. Oh, non so cosa fare. Attenzione all'amico, che cos'è che ha detto avanti? Guarda, non so se mi senti, buonasera per la prima volta, credo. Buonasera, perdona, ricordami il tuo nominativo da questa parte. Stazione Grotte, modulatore Antonio, avanti. Ah, e allora ci siamo già sentiti. B2 da questa parte. Porto Torres. Sì, B2, ci siamo sentiti di una cinquantina di volte e più. Questo è 51, con piacere, dai. Roberto, riprendi. Ma come c'era questo brubrubru, si sentiva brubrubru? Ma c'è ancora? Prova a fare un passaggio. Guarda, se parlo così normalmente non ci dovrebbe essere. Se invece, dai, un attimino fa brubrubru. Ma stai parlando troppo vicino all'apparato? K, quando c'è stazionario questo microfono per amplificato ti crea problemi. Ti volevo chiedere una cosa. Dicami. A seguito del suggerimento di un collega, mi è stato detto che tu hai un appartamento in... Vabbè, se mi dai il telefono, mi fai uno squillo, ti faccio una chiamata. Ma qual radio? No, negativo. Ti do il mio e mi fai uno squillo, così, perché non ce l'ho il tuo. Poi ti richiamo io che ho una tariffa speciale. Adesso ce l'ho messo in carica, era zero. Fatelo dare da Claudio. Naturalmente via telefono, però io non ero di questa cosa. Fai bene. Comunque non niente, era per una cosa che ti si è svoltata e che molto probabilmente mi interessa. E non per me, non è che presenta, non è roba mia, è roba di mio padre. Ehi capo, ma che cos'è, un primo piano? Sì, primo piano, hai detto bene. Caffa, metri quadri? A questo si sento meno 90, meno 95, più o meno così. La zona? Dove sono io? Vicino. Redatto? No, redatto no. È così che mi interessava. È che stavo cercando l'attico per una questione di antenne. Però parliamo, ci sentiamo limite dopo per bassa. Comunque continuo poi questo. Avanti. Se facciamo riprendere gli amici giù di Porto Torres, devo dire poi chi c'è, Gianluca, rientra. Sì, ciao Roberto, sono qua. Ciao, c'è l'altro, ma c'è sempre l'antenna collicata. E una sì, a seconda del vento inizia a girare, diventa una cosa, una direttiva. Capito. Allora, sì, c'è Eugenio qua, poco distante da me, dai. E Franco, avanti Franco. Sì, capo, ciao Roberto, ben entrato. Ben ascoltato. Avanti Roberto. Adesso sta mettendo un po' di scarica, ma non c'è temporale in giro. Io poco fa ho chiesto a Antonio, mi stava dicendo che ha piovuto prima. Io mi sto affacciando qua, mi sembra come tranquillo, non c'è neanche il vento, temperatura stabile, però tutto bene, diciamo, dai, non ho che non piova stanotte, perché mi ricordo che avevamo messo per questo fine settimana un po' di maltempo. Domani è prevista acqua, tipo oggi, magari ci sono dei picchi di acqua, poi diminuisce, delle schiarite, eccetera. Domenica neve a bassa quota, proprio all'altezza di 80 metri è prevista neve, fiocchi di neve. Ho visto le previsioni. Sì, alla grande. Vabbè, quindi organizzati col camper che usciamo, aiuto. Io l'ho messo in moto l'altro giorno, era a me mai un paio di mesi fermo, ma non è già partito subito, cioè ho batterie nuove, è vecchio il mio dietame. Se capita comunque già te lo faccio vedere, sicuramente neanche vicino a quello che c'hai tu e oggi, però diciamo a livello di funzionalità non mi lamento, dai, mi sono tolto soddisfazione, non è che lo usi molto, però mi sono divertito. Ma ne hai amici di hanno il camper? Se sei da solo devi avere lo spirito di viaggiare. Se hai amici che hanno il camper, ti viene molto più semplice. Ma guarda, sinceramente io sono un tipo che non mi piace stare legato con qualcuno. A dire la verità, non sono mai uscito in compagnia di altre gente. Ne ho amici che hanno camper, tantissimi, anche mio fratello c'ha il camper. Però non voglio essere legato da nessuno. Magari può capitare qualche volta, se c'è qualche manifestazione, qualche sagra, cosa del genere, di aggregarmi. Non l'ho ancora fatto, tra parentesi. Però io preferisco andare dove piace a me. Quando me ne devo andare, me ne vado e non devo essere legato a nessuno. Poi può essere anche bello, come dici tu, qualche volta andare tutti insieme, organizzare, fate tipo le carovane, sicuramente è bello, però devi conoscere bene bene le persone. Io sono poco esperto nel senso in quel campo, ho amici sì, però loro vanno con comitive e cose del genere che io non conosco. Anche io ho iniziato che ero da solo, adesso conosco un po' di gente, ma io ho provato il camper così, perché mia moglie in motocicletta non può più viaggiare. Mi fanno dormire fuori, è una rottura di balle, oramai non fa più. E niente, io ho iniziato così, poi si sono avvicinati gli altri e piano piano ho conosciuto gente. Io sono una persona molto espansiva, non me ne fatti nulla, mi via di cane da ieri. No, assolutamente, anche io non sono antipatico da quel punto di vista, però diciamo è diverso se magari ti organizzi, vai, dice, sai un itinerario, dice vai di lì tutti insieme e decidiamo in anticipo. Però io, siccome queste persone loro sono già organizzate per conto loro, o mi aggrego a loro e poi mi muovo in mezzo. Perché io, per dire, quando ho fatto qualche settimana fa, sono andato in Cusca, sono andato per conto mio, poi come mi dovevo spostare andavo di lì, capirete, ce n'erano tanti, ne ho conosciuto, però pure ognuno a casa sua. Vabbè, certo, il camper funziona così, il camper funziona così. No, ma io ho tanti amici dalla parte di Cagliari e dire la verità, non sono legato con nessuno, però mi piace stare anche in compagnia, capito? Oh, anch'io me ne sono andato da solo per i fatti miei con mia moglie, non mi ha fatto nulla di nessuno, sinceramente. Facciamo riprendere anche gli altri, se no monopolizziamo. Vediamo se il Crode ha buttato via l'antenna o se l'ha sistemata. Un negativo, è sempre coricata. E vabbè, quindi il camper, ma perché andare alle sagre per il camper è comodo, perché quando ti imbriagheggi poi ti fai la pennica, ti schiacci il sonnellino, capito? No, non conviene andare alla sagra del carciofo, c'è fra poco, ma non conviene andare se c'è il camper. Cosa? Perché dice che gonfiano un po' i carciofi. Cosa fanno? Gonfiano la pancia, quindi se ti siedi dietro e ti schiacci un pisolino rischi di morire asfissiato. Oh vabbè, se devi scaricare, io ci ho osservato, io mi pare che ci sta un centinaio di litri di sporcizia dentro. Il problema è il camper lui, credo quello che c'abbia Eugenio, c'ha il sacchetto da 18 litri, così è, quelli amovibili c'è. Eugenio? Cos'è? Dimmi a tu. Tu quali c'è? Quelli smontabili, quelli di nuova generazione, sempre sabatuio supplementare. Ascolta sulle colic. No, quello è successo. No, perché c'è sempre la voce registrata che ti dà orario, che coso è frequenta. Ma vabbè, ma tu il cibo nel camper ce l'hai, sì. Allora, il cibo nel camper me l'ho messo perché me l'hanno regalato, siccome era già predisposto nel camper, c'era tutto, me l'hanno regalato, allora con un Apporto Plus nuovo, fiammante, una persona, un amico che adesso si è trasferito, e mi ha dato anche l'antenna. Raccavo l'antenna, una di quelle caricate, non mi ricordo cos'è, ne stavamo parlando poco fa con Claudio, c'è una resa eccezionale, ma ho usato poco e niente, ti ho detto, quest'estate pochissime volte, se l'avrò fatto 5 uscite, non di più. Ah, ho capito. Andate. Scusate. Ok, dai, che devo mollare, devo andare a cena. Ci sentiamo. Ciao Antonio, Rose. Ciao Gianluca. Eugenio e Roberto. Ci sentiamo più tardi se ci siete, dai, dopo cena. Ciao a tutti, buonanotte. Yeah, ciao, buon tutto. Vai Antonio. Prendo io, ciao Fra, ci vediamo, ci sentiamo, ciao. Oh raga, mi sto allontanando un attimo così vado a guardarmi qualche programma, se c'è qualche bel film in 3D, che mi sono comprato il televisore in 3D, me lo potevo guardare tutto quanto. Ciao, a più tardi. A futitini però, non te lo guardare così tanto tempo, guardatelo in un paio di ore. Dai, cambia battuta, dai, ci sentiamo, ciao. Fatela prendere con il televisore. Ciao, buon proseguo di giornata, di serata. simile, dai. Riprendi, Robert. Stavo dicendo, se sei collegato sul coso, sull'ecolink. No, ma scusa un attimo, ma perché stai uscendo così brutto, cacchio? Normalmente ti sento bene, oggi brutto, ma che ha fatto sta autorizzato? C'ho l'antenna che è mezzo fuori casa, quindi sicuramente ha preso un po' di acqua e già coso, un po' di stazionarie. Sì, ma che radio stai utilizzando? Il K? No, negativo, sempre il 48. E con che microfono? Con quello con cui mi senti sempre, quasi sempre. Non con quello con cui mi senti bene, ma con quello con cui mi senti quasi sempre. Visto, dai, perché sembra brum tutto uscire. Oh, aspetta un attimino. Hola. Vediamo un attimo se riesco a migliorare. Hola. No, devo avere stazionario. Si fa questo difetto qua quando c'è la stazione, ma non c'è un accordatore esterno? Negativo. O meglio ce l'ho, però, ma non qua. È un classico, i microfoni amplificati o tutto quello che prevede camera eco, cose del genere, quando ci sono stazionarie creano problemi alla trasmissione. A te ce l'hai un po' troppo eccessivo questa roba. Vabbè, normalmente sugli altri tipi di apparati è diverso, qua forse si sente di più. Sì, ma perché è coricata l'antenna proprio, quindi evidentemente gli è filtrata acqua dentro la calza del PL. Riprendete un attimino, scusatemi, io vado a fare una carichina veloce e rientro subito. Ah, ma chi c'è, Gianluca ancora? Sì, ok, sono caricato. Le antenne, bisogna farli bene i lavori. Sì, ma infatti, dopo l'antenna essendo la parte più vulnerabile a tutto. Tubo, bello. Cavo buono, legislature, vulcanizzazione, tutto quello che c'è da fare. Io ne so qualcosa io, ma prima di farlo abbiamo fatto tutto il progettino per terra, perché dovevo fare un sistema di sostegno particolare, perché da una parte non potevo mettere il filante, ho dovuto fare un braccio, inventare un braccio sotto nella base della tromba delle scale per fissarlo, perché non c'era possibilità di mettere il terzo tirante, allora ho avuto solo il tirante, potevo mettere i tiranti in una base, ho dovuto fare un braccio supplementare, diciamo, nella tromba delle scale, diciamo la casetta dove sono le scale, non ascensori, e di lì allungato con un braccio supplementare, poi ho modificato la cosa, però ho dovuto studiare tutte le altezze in modo che sia ben distribuito. Ho fatto un bel progettino prima e poi l'ho messo giù. Vabbè, certo, con le cose fatte anche per la questione di sicurezza, anche di avere, se sono esposte verso l'esterno, comunque sia, che molte volte anche, vedi, i tiranti, per quanto possono essere per servire magari anche per la, soprattutto per il vento, queste cose qua, ma che sono un ancoraggio, se si cacano due antenne, dopo si caggi, diciamo, come la attaccata da che cannavo, a che cosa. Già lo so, io infatti ho tutto sovradimensionato, ho fatto pali grossi da tubo d'acqua, quelli grossi, tutti i tiranti stabiliti ad altezze ben precise, ho fatto un bel lavoro, dai. Tutti i cavo grosso R213, i PLA, fenol, tutte le cose che dovevo fare, tutto lubrificato con la vasellina, tutti gli innesti, io se metto quel cavo mio è perfetto, poi chiuso, sigillato bene con un altro isolante e poi col vulcanizzante. Tutti gli innesti della mantova sono fatti a uno, tutti impregnati di cosa? Di grasso di vasellina e sigillato, in modo che quando la dovessi smontare non si incolla niente, perché l'alluminio si ossida dentro e poi a cavaniera la devi sfasciare. Ne ho tirato fuori una di mantova, era tutta incullata, fatta un po' a lamina a futto. Quella lì invece già sono sicuro che non la butto giù, è sempre come nuova. Sì, sì, anch'io ho tutte quelle tipo di discese. Ne ho, vediamo un po', 1, 2, 3, allora 1, 2, 5 discese ho con quella 213. Allora io ho di discese, ho la, aspetta con la mantova, più ho la direttiva con l'altra discesa, più c'ho l'altra discesa con il, come si chiama, per la multibanda, con la ricezione, e più c'ho l'alimentazione del rotore, però non mi basta, dovrei metterne almeno due per avere quello che mi serve a me. Sì. No, per stupire anche così c'ho 258, quello là normale, dai, nel discone, nelle cose così, no, in trasmissione già c'ho cavi grossi, dai. No, come dei capi grossi non sbagli, dai. Di certo che ho il 58.000 con la norma militare, che è un po' il rivestimento un po' migliore, ho visto che va abbastanza bene. Basta. Tutto il casotto ce l'ho dalla parte delle antenne paraboliche, di lì sì che ci sono casi di certi livelli e alimentazione, perché di lì c'erano i polarizzatori, il controllo del motore, eccetera, eccetera. Ci sono 5 cavi solo per il, 1, 2, 3, 4 cavi per il motore e del posizionatore, e poi 1, 2, 3, altri 4 cavi per il, coso, per il polarizzatore dell'antenna, di quella grande parliamo. Ah, ecco. Vabbè, certo. E ho due impianti motorizzati, eppure raddoppiati per due questi. Uno va bene, l'altro non c'è il polarizzatore, perché è un tipo di antenna offset, non è primo fuoco, ma con quella primo fuoco di lì dovevi alimentarla. E il convertitore vuole alimentarlo, perché ti fa, devi fare la polarizzazione, la devi commutare elettricamente, ci vogliono altri cavi. Ho capito. Ma è la corrente la Giubilo, sì, vero? La corrente? Con la corrente dove l'attaccate la rotolla, filo tira giù. Sì, io ho i ricevitori col posizionatore incorporato a 36 volt, funziona a 36 volt il coso, l'impianto per muovere il motore. Sono due motori, il sistema uno a pistone e l'altro a coso, a corona dentata. Ah, ho capito. Se sono buoni, se va bene, almeno così hai una resa migliore per quanto riguarda la trasmissione, sicuramente anche la ricezione, quando corrispondente a distanza lo becchi sulla stessa onda, allora guai. Sto parlando dell'antenna satellitare, io la sola ricezione la uso, non mi faccio collegamenti satellitari in trasmissione, a parte ci vuole la patente per andare su quelle bande lì. Anzi, sbaglio, ci sono delle bande che sono libere, per sperimentazione, oltre non so quanti gigahertz puoi andarci anche se non sei radioamatore per sperimentare. Ah, ecco. Non è il caso mio, io lo utilizzavo solo per ricezione, ormai l'impianto mio è super esagerato avere una cosa così grossa, talmente sono potenti i satelliti, basta vedere il satellite principale, lo utilizzi a 13 gradi con un'antenna da 40 cm, ricevi tutto, ricevi 2000 canali per dire. Io l'avevo fatto anni fa, quando i canali erano tutti analogici ed erano per dire, potevi ricevere in tutto 500 canali, 600 canali in tutto l'arco polare, da est a ovest. Per dire, un satellite c'erano 4-5 canali, su Tubis fai che ce n'erano 20 di canali, 30, dai. Adesso su Tubis ci sono più di 2000 canali. Ho voglia. Ma no, comunque molte volte sì, se poi poi magari sporchi, puoi seguire, cioè no. Ma c'è tipo di canali che parlano in altre lingue, è una cosa che non capisci. Meia. Ma scusa un attimino, mi hanno chiamato al telefono. Ok. Ci ho detto, c'ho questo QRM, non so se c'è qualche disturbo fuori, atmosferico forte. Sto cominciando a sentire pure io. Si sente questa scarica tipo un motorino in moto, una cosa così, sento un disturbo fisso. No, quel tipo di disturbo no. Quel rumore che stai dicendo tu no. Comunque io sto sollevando il QRM, diciamo così, di antenna, diciamo, non di propagazione, capito? Ah, adesso ho messo uno splitter e me l'ha eliminato completamente, è una bomba quel filtro, guarda. Ma forse sta piovendo allora, sento un rumore tipo... Questo è il bombo pulito di su, non planta, come si chiama, non c'è niente. Guarda, come l'ho messo me l'ha eliminato il disturbo. E anche a me un pochettino, vabbè dai. Aspetta a vedere, vabbè c'è anche il coso qua, e metti lì. Cappa. I segnali a me mi arrivano abbastanza forti, io molte volte vengo in tiro usando lo squelch. Sì, no, come lo squelch? Quando sei segnali forti ti metti l'attenuatore, l'RFGN, riduci l'ingresso. No, vabbè, sì, il RFGN preferisco magari lasciarlo al massimo, no, se io vedo i segnali di tutti i corrispondenti, che meno male sono abbastanza notevoli, e diciamo così il QRM non è abbastanza alto, io metto leggermente lo squelch, no? E quando lo trasmetti che fa, sembra una telefonata. Tu lo metti lo stesso per eliminare il disturbo di sottofondo? No, no, no, e pensavo che le fregano altre volte, te lo metti per dire segnali oltre il 9, che facciano solo oltre il 9 i segnali. Ah, per attenuare, stai dicendo, quando sono troppo fuffi? Sì, infatti, vabbè, questi tipi di apparati già non ne hanno bisogno, già hanno dei fitti. Non mi è mai capitato di far saturare lo stadio d'ingresso, anche se siamo vicini con Claudio, magari carica e cose del genere, ma col baracchino, con l'altro baracchino, se, come si chiama, devo comprare esattamente, chiuderlo le preghe, se no a Claudio non riesco a sentirlo, va in saturazione, allora col baracchino base, col pace, con l'Intec l'altro base non li va tenuta. Ho capito. No, ma questi grossi non ci sono problemi. Aspetta, lo rimetto di nuovo, uno sblack la vostra carta per vedere, ma è fastidioso senza il corso, senza quando c'è non c'è musica, cioè quando non c'è portata. Ce l'ho 3, 4, neanche. Vabbè, questo è a LED. Ho 3 LED di quel REM di camera. Ria, dimmi una cosa, ma tu ci sei su Facebook? No, no, negativo, non penso. No, no, pensavo ci fosse. No, il sabato lavoro fino alle 11, e domani tra l'altro può consegnare una macchina, un lavoro un po' importante, diciamo è quasi finita di montare, però c'è ancora un po' di roba, dai. Perché normalmente io lavoro, lo finisco il venerdì e sabato più che altro si fa pulizia, si sistema un po' tutto quello che è sporcato durante la settimana. E poi io seguo una squadra di calcio, purtroppo, buon per me anche, e mi impegna parecchio il sabato e la domenica. No, allora, è meglio così, so che ci sia qualcosa da fare oltre al lavoro, se no viviamo solo per quello, e cosa fai? La radio è bella come tante cose, però io per esempio mi piace molto la musica, e giustamente cosa fai? Bisogna coltivare, un colpo di cuda e un colpo al martello. Ma poi queste cose sono delle valvole di sfogo, questi hobby che abbiamo noi, se no diventi trimbecillisti, se uno ha solo lavoro, se rimane a casa, cosa fai? Da vedere la televisione tutto il giorno, o te ne vai al bar a embriagarti, almeno qua un po' ti svaghi un pochettino. Io sono di quelli che ho tanti hobby, tante cose da fare, sono talmente impegnato, guai se non ce le avesse quelle, non sapevo cosa fare, infatti molte volte quando sei, raramente mi è capitato di avere l'influenza, ma ti trovi a casa per una malattia, una cosa del genere, mamma mia. Sono solo un padre, non sai cosa fare. Meno male che c'è la radio, un po' ti aiuto. Certo che sì. No, ma guarda, qualcosa, io penso che qualcosa tutti lo dobbiamo, ce l'abbiamo da fare. Non esiste che non ci sia un qualcosa da, un passatempo, un hobby, o comunque sia una passione, che sia sport, che sia musica, che sia tutto di tutto. Ogni cosa non è secondo me per impegnarsi, soprattutto anche perché ogni persona, io penso che sia portata, abbia qualcosa da esprimere, una vena diciamo artistica o comunque sia da manifestare. Se non c'è una cosa del genere, io ripeto, anche gli stimoli, le cose sono solo per il lavoro, non si vive, dai. Anche tu mi hai detto, cioè, per la passione di della musica è una bella cosa, cioè, mi hai detto che canti, e mi hai detto suoni pure tu. Aspetta, no, perché se sono levato il QRM, se non ti ho sentito bene. Mi hai detto che tu canti, ma suoni anche tu qualche strumento? No, di suonare no, ho quasi tutti i strumenti musicali in casa, non ho mai avuto l'istinto, soprattutto anche la pazienza di cominciare a praticare con magari con le chitarre, con la tastiera, con qualche cosa del genere. Però ripeto, quasi tutti strumenti musicali, l'unica cosa che mi manca è la batteria, per questo mi spazio, non la puoi tenere in casa e dopo non la puoi neanche suonare. Anche se siamo quattro gatti in questa palazzina, non è la stessa cosa. Di essere appunto tuo, diciamo, tutto lì. Vabbè, ormai adesso già ci sono. sono, io c'ho un amico batterista, sono un gruppo, e stavo parlando l'altro giorno, ho detto te le tiro una faccia a quell'elettronica, si è comprato, vabbè, lui ha fatto una sparone, ma lo stavo raccontando, una Roland elettronica, questo è un bravo batterista, ha suonato anche con gruppi importanti, e ho detto queste elettroniche sono come con le altre, se non vuoi disturbare a nessuno ti metti le cuffie e non dà nessun disturbo, infatti quando fanno certe serate, prima la batteria spaccava tutti quanti gli altri strumenti, li sovrastava, ho detto tu vai, andiamo con questa batteria elettronica, ti regoli il volume, se non vuoi disturbare a nessuno te la tieni al minimo e basta, e non c'è bisogno poi suonare anche in un localino piccolo, mentre prima con la batteria, quella vera e propria, quella classica, no, cioè nessuno la voleva perché faceva troppo rumore, poi a casa dice quando vuoi provare ti metti le cuffie e non si sente niente. Sì, sì, lo so, ma adesso che per esempio quel portatore sì, magari la stasera ancora in tutti i locali no, però magari suonando al vivo la batteria diciamo la classica, suoni con quella lì, non suoni con quella elettronica. Però per esempio quest'estate c'era un'ordinanza che per suonare i locali imponevano che ci fosse la batteria elettronica, appunto per il motivo che la può attenuare, può regolare il suono praticamente. Sì, sono quasi tutte così adesso, anche se io preferisco sempre quelle d'epoca. Rientrato. Tanto. Sì, no, ma io ho parlato anche a livello prestazionale, lui mi ha spiegato, siccome questo è uno che suona, bravo, nel senso, non è di improvvisato, è una vita che suona, mi ha spiegato che tu riesci a fare gli stessi suoni, perché ho detto, ma come fa il piatto a dargli con la delicatezza, con lo sfioramento, per dire, nei piatti è una cosa molto sensibile, non è come la cassa, che hai sempre quel colpo lì, la forza più o meno è quella lì, e il colpo, e il rumore fa sempre quello lì più o meno, però nei piatti lo puoi anche sfiorare, la legge ti regoli tutto, la velocità, la sensibilità, il tocco, come una batteria normale, ha detto, preciso, per me ha detto, ma il suono, il suono non te ne accorgi assolutamente, è preciso, e poi lo puoi anche manipolare, se ti piace quel suono della, per dire, di quel tipo di batteria, computer, col computer riesci a monitorare, perché c'ha tante di quelle funzioni, che è una cosa, è come pianoforti, adesso pianoforti quelli a coda, chi ne usa più gli strumentisti, è solo scenografico, si prendono un piccolo piano elettronico per fare gli stessi suoni perfetti come li fa quel pianoforte a coda ad asse. Anche io ho un amico batterista, sicuramente lo conosco. E chi è? Dove c'è? Si chiama Barta. Sicuramente. Aspetta, come lo dici? Passione questa cosa qui, appunto per fare in modo che la gente che magari non ha l'opportunità di suonare con un gruppo o comunque sia di andare a provare in dei posti dove sono delle pareti, queste cose, se la mette in casa e si esercita in qualsiasi momento della giornata, visto che si ascolta in cuffie. Ma perché ha detto qualcosa ad Antonio? Come si chiama il tuo amico batterista? Marta, non se lo conosce, guarda, è famoso. Marta, un soprannome o si chiama Gus? No, Marta. No, facciamo forse una battuta, l'ho capito, Marta si chiama, tipo batteria, se si facendo una battuta, si chiama Marta. Marta, con la V. Marta, Marta, B-A-R-T-A, così. Negativo, Victor. Ah, ma va cagare, ho già capito, stavo dicendo la battuta, Marta come le batterie, sai? Ehi, amico di Durace, gli batteristi, e batteristi, mentre invece a casa ho sentito che hai un musicista lo stesso. Io? Capo, ho sentito così, se l'orecchio ancora mi funziona, qualcuno sta suonando il flauto dolce. Allora, la mia figlia piccola c'hanno musica domani, il maestro di musica, il professore di musica in prima media tiene presente, gli sta facendo studiare a ognuno uno strumentino, li fa fare un paio di notte, e mi ha mantenuto con chi sta a fare le cose. L'altra più grandicella era bravina con la chitarra, però almeno sapeva leggere la musica, ha fatto un paio di anni di chitarra, però la metti con la chitarra, col flauto, la tastiera, conosce le note e sa suonare qualunque cosa, non dico che sia brava, ma sta imparando e riesce a suonare. Chicca invece di Valdi di Sosa, nel senso una ragna che non ne può più, ha detto, ma quanto è suonando, e mi ha detto questa parola, troica si chiama questa canzone, te cos'è? Deve essere roba russa, buh, non si capisce niente, non ho mai sentito. Infatti, aspetta che la cerchiamo e te lo dico. Vai da lui. Via. No, vabbè, almeno ancora noi, almeno nell'ora di musica, quella che era delle, diciamo, di scuola, insomma, le cose sono cambiate. Doveva suonare un flauto, una cosa di cosa. A me mi sarebbe piaciuto suonare uno strumento, anche una tastiera, una cosa del genere, però purtroppo a me mi manca la cosa principale, la pazienza, che io so così che ti ho la prima la cosa. non ce l'ho la pazienza di mettermi a provare, a riprovare. Per questo, l'unico modo per farmi capire uno strumento è mettermi a suonare, mi rinchiudi in carcere, mi dici te, ti tagliando non impari a suonare, non esci. Così forse riuscivo a impararlo su. Io ad esempio ho suonato per 5 anni al conservatorio. Radio cosa suonavi? Non mi hanno mai aperto, infatti. Ah, era la bici, lui sì. Di Santa Cecilia, suonava ma nessuno l'aveva aperto. No, penso a parte gli scherzi, io ho studiato tre anni e mezzo, come cantante, non come strumentista. Già sereni, vai Antonio, amano lo giorno, ma guarda che brutto mi hanno quando non si capisce se stai dicendo seriamente o se stai scherzando. Cazzo sì, lo disendi Dio, ma fai una cosa, perché la dote di un buon bugiardo è dire sempre una parte di verità. Tu cerca il mio nome, il mio cognome su Google e vedi cosa esce. Ah, sì. Il tuo cognome io non lo so quale, tra l'altro. Non conosci il mio cognome? Ma questo che dici in radio? No, Grotte, cosa può essere Grotte? Perché tu ti chiami così, il tuo cognome è così? No, negativo. E allora cosa hai detto? Non ti capisco. No, Robbie, come ti fa da se un cognome così? No, pensavo che si chiamasse Volpe di nome. No, solo io la canto io la devo fare lì. Però fai come quello lì che dice che è andato all'anagrafe a farsi cambiare il cognome perché si chiamava Giovanni la merda. E cioè in effetti il coso dell'anagrafe dice in effetti non è bello Giovanni la merda, non è bellino come nome. E come si vorrebbe chiamare? Fausto. Così. Oh, se prova a cercarmi già mi trovo. Cioè, non sai qual è il mio cognome? No, non lo so, è da che parte lo devi sapere. Come dirtelo? Mio cognome lo sai tu? Sì. Dimmi con che lettera inizia, non lo so, un nome sardo, Aspetta molto, perché c'ha due U. Aspetta un attimino, te lo decodifico subito, Beh, tanto non cambia niente, eh. Se ti devono avere già carottano, già lo sai dove abitano tu. Sì, conosco anche io, il mio nome e cognome, se c'è una cosa che non ho problemi è che lo conoscono il mio nome e cognome tutti, quindi. Aspetta. Hai presente quelli che ti consegnano i pacchi? Quelli di colore rosso. Tipo, TNT sai? Oh, adesso non dire l'altro, quello rosso. Soltanto che invece che finire con Polini e Ulu. Capito, Ulu. Esatto. Capito bene. Dimmi una cosa, faccia a me il discorso. Ma tu non c'avevi quel club che era anche iscritto io, quello Tesla, Nicola Tesla, ancora si trova? Esatto, si trova ancora, peraltro fra un po' faremo qualcosa perché stiamo aspettando il bel tempo. Se guardi, c'è il mio nome e il cognome, lì puoi capire chi sono, niente, prova a cercare su YouTube, non YouTube, vai su Google, metti nome e cognome. E tu cosa c'entri? Perché in inglese è uscito un giornale. Guarda, non hai un computer vicino. Sì che ce l'ho, il tuo nome comunque è Antonio, diciamo Antonio. Okay. Antonio la trippa. Votantonio. Oia. Allora, beh, se c'è in giro mi so, ho il freddo ancora. Oi, i guini ci sono, perché se esci ti prendono la schiaffi, talmente c'è freddo. Ah. No, non ho sentito nulla, Anto. Non sei neanche qua. Non ho sentito nulla se c'è qualche cosa, No, quello di cosa? Adesso c'è la sagra di come si chiama? Del carciofo a Uri. Ed è il. Anzi, prima c'è la sergente Buffende a Ossi. E poi c'è qualcosa a Uri. Ma tu? Sì, il 10 è. No, ma dimmi. Allora, io ho trovato il tuo nominativo di coso, vabbè, quello lo so. Poi c'è scritto 1 dicembre 2012, dipartimento per la ricerca delle produzioni animali. E poi c'è scritto dipartimento di ricerca dell'incremento ippico. Anche le cavalle tu fai. No, sono un cavallo, no, quello lì è una persona che è mio omonimo, ma non c'entra niente. Vai sugli altri. Dove c'è il tuo nominativo di coso, di OM? No, negativo, vai, salta quello lì e vai su altri. Aspetta, c'è altro? Boh, dimmi cosa devo cercare, non so di chi con il tuo cognome. No, nome e cognome ci sono solamente io. Allora, ma fai a che quadri tu? Come? A che quadri fai? Oh, è possibile. Guarda un attimino, tu metti tenore. Tenores? Tenore. Tenores, dimmi, ti prego, cantante dei coi tenores. Tenores ti vedano, tenore. Tenorex, cos'è? Togliax. Tenore, così. Ehi. Sai che sei cantante, un tenore, sì. Perrino. O tenero, sì. Tenaro. Tenaro. Aspetta, vediamo prima nel tuo nominativo, vabbè, cosa ci dice. Oh, non c'è niente perché è appena registrato. C'è scritto che hanno ritirato la licenza. Veglia, senza licenza. Guarda che c'è una foto con Cavafracci. Cavafracci, uia. E beh, Claudio. Pronto. Buonasera. Sì, stavo. Per spegnere tutto, e stavo facendo cosa faccio, un'altra cena. E c'è un bel film, ci vuole un po' di TV, che sono tutta la sera buttato qua dentro, e tu è? Mi sono mangiato una fettina con patate e adesso sto scambiando due chiacchiere, c'ho l'ultima cosa da chiudere e finalmente ne l'ho pesata, mi sono dire. Tanto guarda, via, gli ho visto due oggetti, ma tanto non si senti, dovrebbe essere ancora in mezzo alle cartacce. La paura, poi mi mancava una fattura e fra l'altro ha fallito anche chi da cui la persona che mi rifornivo era Salari, se non lo sapevo. Ma allora Salari? Sarà Sarretto. No, uno sono, era una stessa famiglia che poi si è divisa, è quello che consegnava carburanti, uno è fallito, adesso hanno preso a consegnare anche loro, cioè il resto della famiglia che prima non si occupava di consegne di gasolio, adesso lo sta facendo. Ma non è morto ancora da poco, sono un mese fa, 2 mesi fa. Possibile, è possibile, era Salaris SRL. Ma non è fatto male, è morto. E adesso il resto della famiglia evidentemente comunque erano divisi e c'erano un po' di contrasti. E beh, Roberto. Non ci sei tra i ricercati, sono andato su quelli della Polizia di Stato e non ci sei di quelli ricercati. Dei primi 10 d'Italia non ci sei. Ho guardato a chi l'ha visto e non sta ancora ciappando, non lo so. Oh, e so per te scherzi, non hai trovato niente? No, ma vabbè, sono andato su Tiscal, non sono andato da Google. No, oh, negativo, metti Google al volo e vedi cosa esce. Aspetta. Tiscali va bene. Chi è che Tiscali perché è un motore di ricerca, aiuto. Il suo computer è bloccato già 3 giorni. È apparso di nuovo quel coso della Polizia di Stato. Per sbloccarlo bisogna fare il centro, già la seconda volta. A suo giovane Massimiliano, perché c'è un file preposto per sbloccarlo, altrimenti bisogna riformattare il computer. E lui sa qual è. Solo con Raul mi ha entrato tardi, non c'è venuto neanche oggi. L'ho sentito per telefono, per passa, è stata una cosa fugace. Ma c'hai la frequente colica accesa? No, tutto spento, tu non lo sto accendendo. Sono sempre qua, no? C'era anche Marco stasera. Ma io sono il figlio, vi saluto, un abbraccio a tutti, c'è Antonio, Roberto, Gianluca, a tutti i portatoresi. Ci sentiamo domani, signori. Passo ancora il tango, ciao. Ciao, buona visione e buon QRT, ci sentiamo alle prossime. Avanti Luca. Ehi, ciao Claudio, buona visione, a dopo. Avanti Roberto. Io sto seguendo una cosa così, ma giusto a guardarla, senza di che. La televisione sempre accesa, ce l'ho sempre, sempre, sempre. Avanti Roberto. Ehi, ciao, ciao, buon tutto, ciao, ciao. L'ho trovato, Anto, ma aveva Rocco Siffredi, no? Torra, basta. Ecco, non è di capo. Magari che dopo il pizzetto, c'è scritto sito in costruzione del tenore, quello lì è. No, ma ce n'è altro, lui è vecchio, ma vecchio che non ne può più. A me pare che uno dica che si fa il primo posto. Facevo. Ma facevi, ma tra maschi e femmine o maschi e maschi? No, maschi e maschi. Sì, è bello, ok. Guarda, oggi mi sono divertendo. Femmine e maschi, come ti dici? Dici uguale, uguale c'è Bonucci o femmine e femmina? Era ferrovia dello Stato, era sponsorizzato alle ferrovie dello Stato perché facevamo il trenino. Allora, qua ce ne sono un bel, cosa devo cercare? Opera 99, annuale, l'opera lirica in Italia, questo qui. Anche quello, scendi ancora. Amici di Antonio su Netlog, quello lì? no, boh, non so neanche, scendi ancora, guarda che c'è, prova a vedere, metti Dinamo. C'è scritto chi è Antonio, il tuo cognome, 10 più elementi, chi è Antonio, eh? Guarda, anche Antonio, musica di Iana, testa di Merida, questo qua gente che conosci tu. No, quello lì è l'inno della Dinamo, se vai su YouTube ti fai due risate. Sì, ma cosa devo cercare, cosa c'è in particolare, così me lo dici già. Avevo cantato l'inno della Dinamo, ma una porcheria che la metto a pasta. Tu l'hai cantato? Via. Perché la Dinamo l'inno c'ha? C'aveva. L'hanno cancellato perché l'hai cantato tu? Sì. Canta Denone. Denone su di Bitti, sì. Teolune. O di Susso. Di Susso. Dica che cosa, Gianluca è un cantante. Gianluca è un cantante serio. Tu invece ridi, cara. Non è che rido, faccio ridere, facci ridere. Eccolo qua, lì sono la Marina, l'ho visto, eh. Sì, fatti due risate. Via, via, via. A te se ne sta, farò sentire. Vabbè, c'è poca connessione, aspettate un po' lui. Sì, c'era una specie di apparecchietto che mi stringeva gli attributi. Ti stringeva le palline. Sì, tu mi parli di una cosa, come si chiama? L'arma carrozza. Ma sempre detto, guarda, ma perché quello che l'aveva composto, gli dovevo una cortesia, se no non avrei mai fatto una cosa del genere. E comunque non aveva capito che se doveva essere un inno, doveva essere un attimino più allegro, che parlia davvero... l'inno russo. Guarda, non sto criticando, sto scherzando naturalmente, no, me lo ascolto con calma, sicuramente l'apprezzerò, però mi sembra una cosa un po' seria, no? Una cosa, normalmente gli inni delle squadre, soprattutto delle squadre viventi, però sembra una cosa di, come si chiama, di qualcosa di storico, cioè tipo quando devi commemorare qualcosa di passato. Normalmente si fa sempre qualcosa di più allegrotto, dai, in modo che anche i tifosi lo potrebbero cantare. Comunque, per quel pezzetto che ho sentito è carino anche a livello di musiche. Il problema è che non è bello, è una gran cagata, ma di quello è micidiale, perché c'è una differenza tra l'esecutore, che sono io in questo caso, e invece il compositore, che è quello che ha scritto quella porcheria, a cui io ho dovuto una cortesia e mi sono messo nella condizione per forza di dovergliela fare. Perché mi aveva fatto un favore. Fatto sta che metricamente, e qua Luca subentra, una cosa è fare una cosa in quattro, capito? Che sono le canzoni un attimino, non come questa, un inno deve essere tipo marcetta, quindi deve essere uno, due, uno, due, uno, due, in due, mentre invece questo qua è fatto in quattro, e quindi alla fine diventa al pari di una marcia funebre, capito? Ragione c'ho, Luca. Infatti, sarei fatto tu questo pianto. No, negativo non l'ho fatto io l'ho cantato, io sono l'esecutore, ma non chi l'ha scritto. E più di una volta gli ho detto, guarda che non va bene, che è un attimino troppo lento, un attimino troppo... Se l'avesse fatto in due, invece di essere... Dun, dun, dun, dun, sarebbe stato... Allora sarebbe stato più allegro, però è una cagata a prescindere. E io invece avevo ucciso quello del Lino Porto Torres, insieme ad altri due. L'aveva scritto questo che fa musica del Provatore, si è appoggiato in sala di incisione, ha detto lui, ero bollicchio allo stadio quando hanno avuto le butte d'ore. È forza d'ore, quella lì, hai sentito? No, quello è Porta Torres, lì c'è la carta di Giuseppe Piras, quella è il tirato dolce, vabbè, quella è storica, è finita una canzone vera a vero. Sì, no, parlavo di quello, dico, l'ho fatta solo come battuta, anche se bella canzone da ascoltare, però, dico, a fare un inno, quello è troppo, secondo me, troppo casareccio, nel senso folcloristico, l'inno devi fare una cosa ben fatta, con la musica studiata, composta, eccetera, quella è una canzone da cantare tutti un pari, e nelle arrostite, alle seminate, però se devi fare un inno della società gloriosa, io dico, devi fare una cosa, uno studio che ricordi anche la storia, parlare di qualcosa inerente alla storia della squadra, della città, eccetera, eccetera. Sì, aspetta, però quello Ruzzetta, non hai Piras. No, lì. È tranquillo, quello è Giuseppe Piras dentro la Dolce. Ci hanno fatto. Confermo anche io. Torres. Nel nastro, perché allora all'epoca c'erano le musicassette, dove c'è anche l'Utreno, dice l'Utreno, dopo c'è la grande torre della locomotiva disegnata, no? Suonava lì Luciano Gallieri, Emilio, quello è il pilota dolce, il Ginetto Rossetta, ne ha fatto altre, bellissime.